Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico, ben trovati da Francesco Galante, ma ben trovato soprattutto al presidente dell'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, Carlo Garofolini. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, siamo ai primi giorni di ottobre e c'è una, ahimè, una brutta novità. Sì, purtroppo c'è una brutta novità ed è quella che da ottobre le bollette sono aumentate per tutte le famiglie italiane, bollette della luce e anche del gas. Dopo quindi una serie di continui ribassi, chiaramente hanno pensato bene a vigilia alle porte dell'inverno aumentare subito, adeguare subito le tariffe, e così insomma dobbiamo essere qui a parlare questa volta di aumenti. Ecco, non è la prima volta, mi sembra che fine settembre, primi ottobre sono un vero salasso per gli italiani normalmente. Allora, io non capisco perché ogni volta le bollette del gas diminuiscono d'estate e aumentano sempre alle porte dell'inverno. Questa può sembrare ironia, ma a conti è un po' quello che accade. È vero che in questi ultimi periodi abbiamo avuto dei ribassi, niente da dire, però bisogna anche dire che da ottobre è aumentato 3,4% l'elettricità e 2,4% per il gas, quindi parliamo di aumenti significativi. Certamente aumenti che per le famiglie sono stati calcolati in circa 60 euro all'anno, che però tanti confermano anche come insomma è stato assorbito da una serie di diminuzioni che ci sono state precedenti. Questo dato noi non lo confermiamo, però volevo appunto soffermarmi sul dato riferito all'aumento, perché insomma mi pare che parlare adesso di gas aumenti in un momento in cui insomma c'è il petrolio ai minimi, sostanzialmente mi pare poco adeguato. Anche secondo me, ricordo per esempio, io faccio il GPL per l'automobile, era arrivato a 0,75 al litro, adesso siamo scesi a 0,51 o via dicendo, quindi addirittura uno sconto molto forte, però questo è per il GPL, per la trazione dell'automobile. Il gas che arriva a casa per il riscaldamento è un'altra cosa, forse perché ha anche una tassazione diversa. Ma certamente sappiamo come la tassazione incide grosso modo circa per oltre il 30% sulla bolletta, addirittura parliamo di un dato intorno al 37-38%, calcoliamo l'IVA, le accise e tutte quelle che sono i costi di trasporto, vettoriamento e via dicendo, ci rendiamo conto come alla fine le voci che compongono le bollette sono veramente molte. Però è da dire come anche noi non capiamo questo adeguamento che insomma, l'autorità dell'energia ha voluto adeguare in questo momento, quando secondo noi si poteva rimanere benissimo a delle cifre che eravamo mai abituati a pagare in questi ultimi mesi. È anche vero che comunque, capitando alle soglie dell'inverno, è proprio ironico parlare, perché sono momenti in cui in questi giorni già molte persone staranno cominciando ad accendere o i condizionatori con la pompa di calore, oppure stanno già cominciando ad accendere le prime stufe, i primi termosifoni, e quindi parlare adesso di aumenti significa, ecco, mettere mano sul portafoglio delle famiglie. Sì, ed è sempre una gran brutta cosa. Leggevo proprio da un comunicato che si trova nel sito dell'Adico, l'associazione difesaconsumatori.it, che abbiamo una situazione diversa in Europa, dove la tassazione media sulla luce e sul gas è più bassa rispetto che in Italia. Quindi anche qui ci sarebbe da rivedere un po' di cose, no? Andiamo sempre a parametrizzare i nostri dati con quelli dell'Europa, però in questo caso noi siamo più alti di tutti come tassazione. Beh, ormai siamo abituati a considerare il nostro paese, quando si parla di tasse, sempre ad essere dei primatisti. Noi sappiamo che quando si parla di tassazione veramente con difficoltà non saliamo sul podio, e davvero purtroppo quelli che sono i dati in cui comunque le tassazioni, soprattutto anche le tassazioni, nelle tassazioni in questo caso, perché quando si parla di bollette bisogna anche parlare di tutte quelle voci, come dite, le compongono, assumono sempre un aspetto rilevante nella vita di ciascuno di noi. Pertanto aumenti che sicuramente le famiglie non apprenderanno con molto entusiasmo, magari più avanti saremo qui a parlare di quali strategie adottare per poter risparmiare sulle bollette, dando dei consigli su un corretto utilizzo degli impianti caloriferi d'inverno, però ecco, teniamo conto di questi che sono i dati, certamente dati che non vanno a ripercuotersi su chi non è regolamentato nel mercato dell'energia, perché qua parliamo di aumenti dell'authority, ma certamente saranno aumenti che comunque un po' tutti subiremo, perché presto o tardi tutti profiteranno per adeguare un po' le tariffe. Ecco, prima di salutarti, Carlo, ti chiedo se nelle prossime occasioni con la nostra rubrica parleremo per esempio di quello che sono i nuovi regolamenti sui riscaldamenti nei condomini, dove bisognerà mettere nei caloriferi, nei termosifoni che abbiamo, dei regolatori e dei misuratori. Questo comporterà una serie di spese importanti, dato che hai parlato di riscaldamento. Mi è venuta in mente questa cosa e ti chiedo se un domani riusciremo ad approfondire questo argomento. Sì, prenderemo spunto, sarà un'ottima occasione per farlo, ti dico già certamente, e come detto è anche un ragionamento che cade proprio in un periodo dato di cui credo che gli ascoltatori debbano essere informati. Grazie al presidente Carlo Garofolini, tra qualche giorno un nuovo appuntamento con l'Adico. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.